Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ben ritrovati su Radio 24 e ben ritrovata Ivana Di Martino. Ciao, buona domenica a tutti. Allora, puntata della vigilia, possiamo dire, all'insegna del regalo Last Minute, perché qui con noi oggi Biagio D'Angelo, maratoneta e autore del libro Non ci resta che correre. Benvenuto. Grazie, ciao, buongiorno. Biagio, tu sei più scrittore o più maratoneta? Ma in realtà sono scarso, secondo me, sia nell'una che nell'altra disciplina. Diciamo che sono un principiante, quindi mi piace anche esserlo. Mi piace questo approccio un po' così. In entrambi i casi, insomma. Sì, però uno che vuole imparare, quindi mi piace essere, ripeto, sia come scrittore che come corridore, uno che inizia e che vuole continuare. Possiamo dire che la tua storia è simile alle storie di molti amatori che ascoltano anche la nostra trasmissione Personal Best, di quelli che hanno scoperto la corsa in età adulta, no? Sì, io ho iniziato a correre che avevo 45 anni e sono il prototipo di colui che è sempre stato scarso, sempre fallito fin da bambino nello sport, quindi mi sono preso una piccola rivincita. Ma perché hai iniziato a correre? Cos'è che ti ha mosso? Beh, in realtà è un po' come racconto anche nel libro, il cui personaggio un po' assomiglia ovviamente a me, è la voglia di fare sport, però uscendo dalle quattro mura di una palestra. Io dico che è disumano uscire da un ufficio e entrare dentro le quattro mura di una palestra, quindi avevo voglia di ritrovarmi, come dire, in mezzo a una strada. Questa cosa di mettermi in gioco mi piaceva, e poi ho avuto la fortuna di vedere una maratona dal vivo, quindi è stato per me uno shock questa cosa, cerco di raccontarla. Anche tu, il tuo primo approccio alla maratona è stato da spettatore, no? Da spettatore, un incontro proprio casuale, ero in vacanza a New York un po' di anni fa e ho visto questa cosa passarmi davanti, questa cosa che io definisco questa specie di drago colorato da mille teste, anzi molte di più, e questa cosa mi ha travolto letteralmente. Da lì ho detto questa è la cosa che io voglio fare. Tra l'altro è il sogno, no, di tutti gli amatori fare la maratona, sì, di New York, quindi tu, cioè io quando vedo poi gli altri correre ho una voglia pazzesca, cioè mi viene tanta voglia di correre, quindi è successo anche a te questa cosa, cioè quando hai visto la maratona poi hai detto ok, adesso inizio a correre? Sì, esattamente così, anche perché vedere la maratona di New York è significato vedere persone di tutti i tipi correre e misurarsi con questa entità epica che la maratona ha, questa, quindi anziani, disabili, persone normali. Ecco, poi a me questa cosa ha colpito e questa cosa mi ha spinto a provare a raccontare questa storia. Il fatto che correre è proprio una cosa che tocca cioè le persone normali, quindi chiunque può farlo e chiunque può mettersi in gioco e misurarsi con questa creatura, come dire. Poi adesso è esplosa la corsa, perché sì, tantissimi, cioè adesso rispetto a 10 anni fa anche, no, sul Naviglio vediamo un sacco di persone che corrono, quindi è esplosa, sì, completamente questa voglia di correre, di stare all'aria aperta, di anche socializzare in un modo diverso, no? Sì, ma perché poi la corsa ti fa scoprire un mondo. Ad esempio, quello che potrebbe sembrare lo sport più individuale del mondo, correre, no? Una cosa che poi io scrivo è una cosa adattissima per i lupi solitari, diventa un mondo di relazioni, e quindi passo successivo, dopo che uno inizia a correre da solo, al Naviglio o altrove, alle 7 del mattino, è quello di incontrare altri umani, no? E di incrociare altre rotte, altre traiettorie. Questo diventa bello. Nel tuo libro ci sono tanti spunti che faranno sorridere chi lo leggerà, e molti si ritroveranno anche nella tua storia. E il tuo non è un manuale, diciamo, è una sintesi un po' del podismo, perché ci sono molte cose che fanno sorridere. Per esempio, mi ha fatto molto ridere il fatto che tu racconti che quando si va all'estero, parlavamo di New York, si identifica subito chi correrà, perché tutti stranamente indossano un paio di scarpe da running. Nessuno va all'estero comunque a fare una maratona con un paio diverso. Il sabato, cioè, gli amatori li vedi tutti, insomma. Sì, a me questa cosa ha colpito proprio a New York. Noi nel viaggio di ritorno all'aeroporto, quando pochi giorni dopo la maratona, individuavamo facilmente i runner, perché erano tutti quelli con queste scarpe colorate. Quindi siccome anche noi, un po' per sfida, un po' per gioco, ci eravamo comprati lì a New York delle scarpe da running, pur non essendolo, pur non esibendo la nostra medaglia, perché non ce l'avevamo, non avevamo fatto la corsa, ci sentivamo in un certo senso parte di questo gruppo, di questa comunità di mille nazioni, ed è stato un po', come dire, l'inizio di questa storia. È quasi una regola non scritta, no? Questa di indossare delle scarpe da running prima di una gara. Sì. E poi anche le scarpe da running per l'amatore è un argomento di chiacchiera di tutti i giorni. È un argomento ossessionante e io a un certo punto Però è anche il nostro strumento di lavoro. Certo, anche, no, quindi, è l'unico strumento fondamentale, no? Ed è proprio per questo diventa un oggetto di discussione infinita. Io a un certo punto nel libro racconto che è l'unica situazione in cui degli uomini eterosessuali la sera si ritrovano a parlare di scarpe. Sono e runner. Non di donne. Sono, esatto, sono runner. Quindi... E poi tu racconti anche nel tuo inizio, nelle prime gare del famoso, quello che definisce il passo del moribondo, no? Di quando tu racconti molto della Milano, diciamo che il libro è ambientato prettamente a Milano, per cui sono i luoghi che ritroviamo per chi corre, la Montanetta di San Siro, l'Alzada del Naviglio Grande, insomma racconti tutto questo percorso, tra cui si vede anche chi inizia ad approcciarsi la corsa, e tu descrivi quelli che hanno un po' il passo del moribondo e sono anche eccessivamente vestiti, no? Nell'abbigliamento. Sì. Per cui il passo del moribondo tu consideri chi va a 6:30, 7 km. Sì, no? Siccome in un certo senso poi mi sono un po' evoluto. Sì. Perché è giusto che uno si migliori e cerchi di migliorarsi, è umano ed è giusto che sia così. Però tuttora capita di incrociare, di vedere chi è all'inizio, e quindi c'è questo moto di tenerezza, di compassione, di empatia con chi ha 40, 50, 60 anni, si mette in gioco, si butta in mezzo a una strada e vedi che stringe i denti, che serra i pugni capisci che c'è la musica rock sparata dalle orecchie per farcela. Però è bellissimo, cioè è bello. È un modo per rivedersi, no? Dai. Una grande... Sì, certo, come certo. Fosse uno specchio nel passato. Certo, certo. Passato. Ma poi mi accorgo che anche chi, come ad esempio Ivana, cioè quelli forti, no? Normalmente nella corsa c'è una grande, anche qui, una grande empatia, una grande fratellanza, oserei quasi dire, fra chi corre una maratona sotto le 3 ore, quindi fra chi è forte e chi invece si mette in gioco pur senza avere grandi ambizioni, perché la corsa poi è questa, è veramente, come dice qualcuno, lo sport più democratico che esista, cioè agli stessi nastri di partenza ci sono i keniani e i tappascioni che dietro, ci mettono 6 ore e mezza, no? Quindi... Ma e quindi hai fatto una maratona tu? Sì, no, penso che ne ho fatte addirittura 4. Che grande, bravissimo. Quindi, è stata la tua prima? Qual è che hai scelto come allora, prima? La mia prima maratona è stata la maratona di Valencia. Il mio sogno. Che sapevo essere una maratona molto partecipata dal punto di vista del pubblico, e io non potendo andare a New York quell'anno e non avendo anche le risorse economiche, ho puntato su Valencia perché sapevo esserci questa grande energia, che è stata infatti un'esperienza stupenda. E com'è andata? Come ti sei sentito? Cioè, quando sei arrivato, cosa hai provato? Valencia, come mi immagino, cioè no, in realtà non immaginavo che fosse così, questi ultimi chilometri con questa folla che si stringe sempre di più prima di arrivare alla Città della Scienza, questo posto bellissimo dal punto di vista architettonico. E mi ricordo questi 2 chilometri proprio stretti fra la folla, ma io ci ho messo 4 ore e mezza, quindi una grande, trovo bellissimo e pazzesco come le persone siano rimaste lì ad aspettare quelli lenti, quelli dell'ultimo minuto, quelli di cui un po' racconto in questo libro, no? E io ero veramente commosso, ma penso che sia normale. Come mai ti è venuta voglia di scrivere un libro? Beh, a me è sempre piaciuto scrivere, in un certo senso anche come scrive a un certo punto in questo libro, cioè un personaggio dice al protagonista: forse tu ti sei messo a correre perché cercavi qualcosa per cui valesse la pena di scrivere. Io ho letto tanti libri sulla corsa in questi anni, ho letto i manuali, ho letto i libri di quelli bravi, di quelli forti, i libri delle celebrity, eccetera, eccetera. Però mi sembrava che mancasse la storia di chi corre nelle retrovie. E allora ho cominciato a raccogliere un po' di storie di persone reali, perché questo libro è pieno di persone che esistono, che vivono e lottano e corrono in mezzo a noi. Originariamente il progetto era quello di creare, di raccogliere queste storie. Poi mi sono accorto che forse una storia che poteva somigliare alla mia poteva fungere da collante fra questi diversi personaggi. Allora ho detto, dai, proviamoci. E paradossalmente la preparazione per una maratona è stato un grande insegnamento in termini di disciplina. Perché come tutti... Anche per scrivere, insomma. Sì. Certo, perché come tutti i maratoneti sanno, la maratona è, e lo dice anche un personaggio in questo libro, è uno sport da secchioni. E quindi bisogna mettersi lì e entrare nelle tabelle. E quindi io ho scoperto che anche per scrivere un libro devi essere molto disciplinato e farti la tua tabella. E quindi ho seguito quasi una tabella. E c'è anche tanta musica. Sì, sì. Anche qui la musica per i runner ci sono chiaramente due scuole di pensiero. Chi tiene le cuffiette, gli auricolari alle orecchie e chi invece deve sentire il suo corpo. È troppo concentrato nella corsa, esatto, per ascoltare altri. Normalmente sappiamo bene che c'è un'evoluzione anche in questo, che all'inizio uno si trova inconcepibile un principiante, un beginner, uscire a correre senza le cuffie. Poi capisci che puoi farne a meno e lì inizia un altro mondo, no? Un'altra scoperta. E tu cosa fai? Corri con le cuffiette o no? Io per adesso senza, per senza. Adesso sono nella fase in cui... Sei voluto. Sì, però ogni tanto capita, però adesso mi piace uscire. Se le ho dimenticate a casa, se non le trovo più, me ne frega niente. Tu poi parli dei runner che non si dividono tra lenti e veloci, ma tra quelli che parlano tanto e quelli che parlano poco. Sì, sì, che sì. Questa è un'altra cosa tipica di chi corre. Se ha un compagno di corsa, c'è qualcuno che sta completamente in silenzio. In silenzio, ci sono alcuni invece che non smettono mai di parlare. Chi va a correre in compagnia lo sa. Chi va a correre in compagnia con un amico o con dei amici lo sa che c'è. Poi prendo in giro anche le mie amiche runner e dico che le donne sono tendenzialmente delle compagne di corsa abbastanza loquaci, no? Anche se conosco parecchi uomini e parecchi amici che riescono a non smettere di parlare per 10 o per 15 chilometri. E poi ci sono quelli che invece ascoltano se stessi, quindi... Anche se corrono in compagnia preferiscono stare in silenzio, sì. E poi c'è molto racconto legato logicamente alla maratona. Il protagonista del tuo libro va verso la maratona di Venezia, perché insomma incrocia casualmente, in questo caso tu sei stato a New York, ma il protagonista del tuo libro vede per la prima volta la maratona di Venezia, ne rimane affascinato e poi punta a chiudere questa maratona. C'è tutto il racconto, insomma, nell'arrivare a correre questa maratona, che è fatta di persone che ti danno consigli, di gente che ti dice ma hai saltato un allenamento, ma stai tranquillo, i lunghi li hai fatti, che solitamente quando uno cerca l'assicurazione chiede sto correndo una settimana per quell'influenza, perché logicamente per un amatore solitamente sta preparando la prima maratona, succede sempre, certo, il mese prima dell'evento succede sempre qualcosa che dà una frenata, diciamo, alla propria preparazione, per cui cerchiamo rassicurazione e la troviamo sempre qualcuno che ci dice beh, se hai fatto i lunghi allora sei a posto. Sì, o comunque magari ti dicono vedrai che allora non vedi il muro, no, del 32esimo 35esimo chilometro. Tu l'hai visto il muro? Ma allora parliamo un po' di Venezia, che è veramente una maratona bellissima secondo me, perché quel 32esimo 33esimo chilometro, chi la corsa lo sa, coincide con l'incredibile ponte l'ultimo infinito che, come dicono quelli bravi, è lì che inizia la maratona. E lì per me è stato un momento molto bello e molto denso dal punto di vista emotivo, perché poi io su questo lo provo a raccontare in questo libro, di quel ponte chi si prepara per la maratona ne legge e ne sente di ogni, è lunghissimo, è un incubo, la gente va su Google Maps a vedere che scherzi, io andavo ogni settimana su Google Maps a vedere anche quel perché ponte. Si ha paura poi del vento, perché spesso c'è il vento, no, lì, quindi si misura il vento anche. Però è anche quei 4 km di ponte sono un momento magico, perché tu hai corso per 30 km attraversando, costeggiando il fiume, passando anche attraverso posti non certamente patrimonio dell'UNESCO come Porto Marghera, come Mestre. Poi questo ponte vedi da lontano nella nebbia comparire Venezia e lì è l'esplosione di tutto, cioè lì ti sale l'emozione, diventi matto lì anche, poi certo attorno a te vedi la gente stare male, quelli che camminano, quelli che vomitano, quelli che vogliono morire, però è la parte del gioco, è l'epica di questa cosa che è la maratona, quindi. Tutti puntano poi a quel traguardo, poi in realtà sembra quasi farla apposta, a parte Venezia è piena di ponti alla fine, no? Ce ne sono 17, 14. Se non ricordo, 14. Casualmente in una maratona ci sono sempre intorno al 40esimo, 39esimo c'è sempre un cavalcavia. Sì, è vero. Nel racconto di chi, e poi come tu racconti la mitologia della maratona, nel tuo libro parli di questa mitologia, c'è sempre un racconto che parla di un guarda che comunque al 39esimo chilometro c'è stato un ponte che veramente e poi c'è il racconto anche della partenza della maratona, per cui gli odori, i profumi che scaturiscono e le ansie delle persone che sono lì a aspettare lo start. Tutti i riti che sappiamo, gli odori che si sentono, la canfora, siamo quasi, a me richiamavano, perché poi provo anche perché è un libro poi è rivolto non appena ai runner, anzi a chi è un tentativo di cercare di descrivere questo mondo a chi non lo conosce. E quindi racconto, magari c'è qualcuno che non la conosce, la storia di Filippide, di come è nata un po' l'epica della maratona 2500 anni fa. E chi si ritrova poi nel mezzo di 1000, 2000, 10.000, 50.000 persone prima di una maratona, sembra di essere in mezzo, o comunque con un po' di immaginazione, di essere in mezzo a un battaglione di soldati che si prepara per la battaglia. Quindi c'è un richiamo. Tu parli di noi, siamo i guerrieri di Braveheart, no? sì ma quello quando si parte, perché quando si parte si ha una maratona, soprattutto le distanze più brevi, c'è questo grande desiderio, no, coltivato per mesi, di partire, che quando si parte non pensi al tempo, i primi 2 chilometri parti come un disgraziato, no? poi capisci l'attenzione, no? Però i primi chilometri di una, ad esempio, soprattutto, ripeto, di una mezza maratona sono veramente, la corsa ci si infila, è come ovunque, un fiume che rompe, che spezza una spacca una diga, e l'acqua va dappertutto. Quindi sì, perché c'è l'euforia, certo, dell'inizio, della partenza. Grazie Biagio, allora a questo punto non ci resta che correre. Assolutamente. Verso la maratona. Terzo appuntamento dedicato alla preparazione delle maratone di Milano o Roma per il prossimo 8 aprile 2018, grazie ai consigli e al piano di allenamento del coach Fabio Vedana. Bentornato. Ciao a tutti. Allora Fabio, le prime 2 settimane di allenamento sono andate, abbiamo fatto il test di Cooper, abbiamo scoperto quale potrà essere il nostro obiettivo in ordine di tempo per la maratona e stiamo procedendo con 2 piani di allenamento paralleli. Chi potrà andare sotto le 4 ore, chi invece chiuderà sopra le 4 ore. Come procediamo ora? Allora, abbiamo detto, nella fase di adattamento, quindi nella fase in cui cerchiamo di le fondamenta per la nostra prestazione, e quindi continuiamo con quello che abbiamo fatto la settimana precedente. Faremo quindi, per quelli che sono ambiziosi e puntano ad andare sotto le 4 ore, i 2 allenamenti infrasettimanali, li porteremo quindi fino a 60 minuti di corsa continua, sempre usando il respiro come intensità di riferimento. Quindi se vediamo che ho un respiro affannoso e ho difficoltà muscolari, non devo avere timore a inserire 1 minuto di cammino. Mentre per chi avrà l'ambizione di andare oltre le 4 ore, i 2 allenamenti infrasettimanali utilizzeremo sempre la tecnica della corsa cammino, quindi faremo 10 volte 4 minuti di corsa seguiti da 1 minuto di cammino. Mentre l'allenamento del fine settimana, quello più lungo, sarà per quelli che stanno sotto le 4 ore, arriveremo fino a 80-90 minuti. E mentre per quelli che vogliono andare oltre le 4 ore, staremo intorno alle 65-75 minuti di corsa continua lenta, avendo sempre l'accortezza di inserire del tratto di cammino se vediamo che l'impegno muscolare è troppo elevato e se la nostra frequenza cardiaca e quindi di conseguenza il nostro respiro diventa troppo affannoso. Questo è un parametro, diciamo, quello del respiro, soprattutto se corriamo con un amico, magari facendo 2 chiacchiere con lui capiamo se abbiamo il respiro per fare 2 chiacchiere e anche correre, insomma. Se non abbiamo il respiro per fare 2 chiacchiere vuol dire che stiamo andando a un'intensità metabolica troppo alta che riusciamo ad eseguire in quanto abbiamo tutte le riserve per farlo, però non creiamo quegli adattamenti che sono invece il nostro obiettivo di questa fase di preparazione. Grazie Fabio e buon Natale, a domenica prossima a questo punto. Buon Natale a tutti e buon allenamento. E anche per oggi è tutto, vi ricordiamo il nostro indirizzo mail per i vostri commenti e le vostre domande, personalbest@radio24.it. Buon Natale. Ciao, buon Natale a tutti. Personal Best. Tutte le puntate sono disponibili su radio24.it.